Hai sentito? Sì. Era uno sparo. Sì. È piena di armi questa città, piena. E sono venute fuori tutte insieme come funghi. E non è la televisione. Oh no, la televisione no, davvero. E nemmeno l'esercito o la polizia. Vengono dai palazzi gli spari, dai tetti delle case. Possiamo parlare di qualcos'altro, se non ti dispiace? C'era una vecchia stamattina che attraversava la strada. Una vecchia qualunque. Di quelle che vedi in fila alle poste, con un cappotto di lana, la borsetta di finta pelle. Aveva in mano una pistola. Una pistola piccola, sembrava un giocattolo, ma non era un giocattolo. Era vera. Come fai a sapere che era vera? Lo so. E non era soltanto impaurita. Era pronta a sparare. E poi? Poi è entrata nel portone di una chiesa. Magari è ancora lì in questo istante. Magari stringe ancora la pistola, nascosta nella tasca del cappotto, di fronte all'altare, sulla panca di famiglia. Ci pensi? Chi te l'ha raccontata questa storia? Adrian, l'albanese del primo piano, lo conosci? No. Quel ragazzone alto e grosso con la voce grave. Sì, ho capito, ma... non sapevo che fosse albanese. È partito per l'Albania, a piedi. Ci puoi credere? Parliamo di qualcos'altro. Di cosa vuoi parlare? Qualsiasi altra cosa. Mi hai detto che sei stata fuori oggi. Raccontami cosa hai visto. Ancora. Ci sarà qualcos'altro di cui parlare? O no? Possiamo stare sempre in silenzio, non bisogna per forza parlare. Sei stata carina a farmi entrare. Io non so se l'avrei fatto a quest'ora della notte, in una giornata come questa. Se uno sconosciuto mi avesse bussato alla porta, non so se gli avrei aperto. Tu non sei una sconosciuta. Beh, non ci siamo mai rivolte la parola prima d'ora. Lo so, ma io ti conosco. Abiti al quarto piano, nell'attico, non è vero? Sì. E non prendi l'ascensore. Come fai a sapere che non prendo mai l'ascensore? Hai sempre tacchi alti, hai dei passi veloci e pesanti e ogni 5 o 6 gradini perdi per un attimo il ritmo come se dovessi ritrovare l'equilibrio. Sono quasi passi da uomo. Ti dirò, all'inizio pensavo che tu fossi un trans o qualcosa del genere. E poi sei quella che fa le feste e hai un amico che suona il sax. È vero. Comunque, grazie. Conosciuta o sconosciuta, io non penso che avrei avuto il coraggio. Oltretutto, fossi stata nelle tue condizioni. Cioè? Fossi stata come te. Cosa c'entra? Avrei avuto ancora più paura. Io non ho paura, sei tu che hai paura. Che ti sei offesa? Non è che mi sono offesa, ma non mi sembra che ho più paura di te solo perché sono cieca, anzi. Cos'è? Non mi vuoi più parlare. Non riesci a stare in silenzio per un attimo? No. E allora? Raccontami cosa hai visto, per piacere. Come hai detto che ti chiami? Anna? Sì. Anna, per piacere. Sei la terza persona con cui parlo in tutto il giorno. Tu sei stata fuori, io no. Hai detto che sei arrivata fino alla stazione. Avrei visto molte cose. Il mio maestro di yoga... io faccio yoga, lo sapevi? No. Il mio maestro di yoga dice che nelle situazioni di tensione bisogna visualizzare immagini positive perché attivano le endorfine. Tu lo sai cosa sono le endorfine? Sì. È una tecnica contro gli attacchi di panico. Anche raccontare libera le endorfine, sai? Cioè? Sblocca i centri nervosi, scioglie le sinapsi del cervello. Chi te l'ha detto? Ti prego, Anna, poi parliamo di quello che vuoi tu. Puoi stare qui quanto vuoi, Puoi addirittura dormire qui se vuoi. Adesso raccontami cosa hai visto, per piacere. Va bene. Da dove comincio? Dall'inizio. Dall'inizio. Bene. Apro gli occhi. Sento delle voci per strada. Prima sono solo delle voci, poi diventa un mormorio sempre più forte. Niente rumore di macchine, di clacson, solo il rumore della folla sempre più forte. Guardo la radio sveglia per capire che ore sono, ma è spenta. Allora prendo il cellulare. È spento anche quello. Mi sembra strano perché io il cellulare non lo spengo mai neanche la notte. Provo allora ad accenderlo, ma non si accende. A quel punto mi alzo e vado alla finestra e vedo la gente per strada. È come un corteo. Ma non è un corteo, perché nessuno va da nessuna parte. C'è gente in pigiama. Si guardano intorno. Parlano a gruppetti. Provo allora ad accendere la radio, ma nemmeno quella funziona e neanche la televisione. Non c'è più corrente. Cerco di accendere il computer, ma niente. E allora penso che è proprio strano perché la batteria del mio computer è sempre carica, sempre. Sì, anch'io ho fatto le stesse identiche cose. Poi mi cose. Sono vestita e sono scesa per strada, ho parlato con qualcuno. Dicevano che neanche le macchine funzionavano più. Erano tutti impazziti e nessuno capiva cosa era successo. Pare che tutto fosse cominciato verso le 4 del mattino. Dicevano che neanche negli altri quartieri della città era uguale. E c'era un ragazzo che era venuto in bicicletta da Pavia e aveva detto che anche lì era la stessa cosa. E aveva fatto l'autostrada. E anche l'autostrada era ferma, con le macchine ferme e abbandonate sul ciglio della strada o addirittura in mezzo alle corsie. E qualcuno era stato alla polizia e anche lì non sapevano niente. E erano impazziti e in assetto di guerra perché le radio non funzionavano. Nessuno poteva più comunicare con nessuno. Nessuno sapeva niente e c'era chi pregava e chi piangeva. E io, tutto questo, mi sono chiesta se i treni funzionavano ancora perché io oggi dovevo andare a Venezia. A Venezia? A Venezia, sì, dal mio ragazzo. Era il mio programma di oggi. Alzarmi, preparare la valigia, fare un bel bagno caldo e poi andare alla stazione, ricaricare il telefono, comprare Vanity Fair. Sì, lo so. Vanity Fair è un po' così, lo so. In realtà io ho l'abbonamento su Vogue e Marie Claire e poi c'è questa nuova rivista francese, Le Gluck. Però sul treno non so perché mi piace Vanity Fair. Ma tu sei fidanzata? No. Io sì, ho il fidanzato a Venezia, il fidanzato ufficiale. Poi vai, sai, ho un po' di amici, tutte persone molto interessanti. Ci vediamo, passiamo delle belle serate insieme. Perché sai, secondo me, per fare una relazione completa, un uomo solo non basta, non ti pare? Dimmi cosa hai visto dopo alla stazione. Oh, basta! Anna! Siamo in una situazione di merda, davvero di merda. Una merda colossale, una merda che più merda non si può. Una merda di una merda di una merda. Una merda, merda, merda. Una merda, merda, merda, merda, merda, merda, merda, merda, merda, merda, merda, merda. Anna? Merda, merda, Anna, che stai facendo? Sei a testa in giù? Sì. Sto facendo un esercizio di yoga. Attivo la circolazione tra le energie inferiori e quelle superiori. Mi aiuta a rilassare. Ma perché non facciamo un gioco? Facciamo che tu devi indovinare. I wanna film my love, no picture what to see. I wanna leave my love, no picture my love to see. Here I go, where to go, as I'm the river, poker faces. Where's where I want my time? Allora? Non mi va di giocare. Allora, una preghiera. Una preghiera. Che preghiera? La sai? Non lo so. Una qualsiasi. Tu avrei fatto catechismo. E tu no? Ma che io al liceo, prima delle interrogazioni, quando dovevo supplicare Dio, dovevo inventarmi delle preghiere da me, tipo Santa Maria degli studenti fa che non prenda degli insufficienti, Santo Gesù che stai lassù fa che prenda 8 più. Dai. Insegnamene una vera. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Una più breve? Com'è? Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù. Ave Maria. Anna! Anna! Sì. Ho bisogno di rimanere un po' da sola. Cioè? Se puoi lasciarmi da sola per un po', per favore. Mi stai cacciando. Non ti sto cacciando. Ti sto chiedendo di tornare in casa tua e di lasciarmi sola. Ma come? Io sono qui apposta per te, per aiutarti. E tu? Che fai? Mi cacci? Ma sei fuori? Posso stare da sola, sono abituata, grazie. Certo, da sola, come no? Ma dove vuoi andare da sola? Hai la fortuna di avere qualcuno che ti assiste, che si prende cura di te? Non ho bisogno di una persona che mi assiste. Non ho bisogno di nessuno. Ho perso la vista che avevo 8 anni. È da quando ho 8 anni che non ho bisogno di nessuno, hai capito? Vabbè, io non sono così, ok? Io non ci sto da sola. Anna, se per favore te ne vai da casa mia, mi faresti un piacere. E io non mi muovo, mettiamola così. Io non me ne vado. Che fai? Chiami la polizia? Chiama. Prendi il cellulare. Chiama. Apri la finestra e mettiti a urlare. Non arriva nessuno. Ma perché non sei rimasta nel tuo attico? Eh? Perché sei venuta fino a qui? E sto dicendo a te, eh? Ma vaffanculo. Ma vaffanculo lo dici a tua madre. Esci dalla mia casa, grazie. Simpatia. Signorina, simpatia. Per favore, vorrei che tu mi lasciassi sola, veramente. Non ti conosco, non so chi sei. So che ti chiami Anna solo perché te l'ho chiesto. Voglio stare da sola, quindi per favore, se puoi, apri la porta e tornatene da dove sei venuta, grazie. No. Io non mi muovo di qui. Io resto qui. E sai che faccio? Canto anche tutto il tempo. Canto a te che sei qui, al terzo piano, e non mi vuoi far rimanere, e non mi vuoi far rimanere, e non mi vuoi far rimanere. Cos'è? Non mi vuoi più parlare? Non so proprio di cosa potrei parlare con te. Ho capito. Tu sei una di quelle che ha bisogno di fare grandi discorsi filosofici e io non ti vado bene come compagna di conversazione. È colpa della gente come te se è scoppiato tutto questo casino, se ha avuto l'effetto che ha avuto. Della gente come te, che se ne frega di tutto, che non sa ascoltare, che non sa rimanere in silenzio, che pensa soltanto ai soldi, no? Al progresso, alla tecnologia, come se fosse la soluzione di tutto, vero? Come se fosse l'unica cosa per cui vale la pena vivere, eh? La naturalista ambientalista. Guarda che non ho proprio bisogno di qualcuno che mi faccia la morale in questo momento. Grazie. Senti, ma di un po'. Non sarei mica per caso anche comunista, vero? Au, au, au, au, au. E se anche lo fossi? Ecco, ecco, lo sapevo io. Ma guarda, se in una situazione di merda come questa mi dovevo trovare in casa una milanese del cazzo. Ma che vuoi, eh? Ma chi sei tu per giudicare? Esci da casa mia! Ciao. Ciao, ciao. Me ne vado. Stai pure da sola a marcire nella tua merda. Così fanno tutte le persone come te che credono di essere totalmente indipendenti. Ma le persone sono importanti, sai? Sei proprio una. Ma perché cazzo io mi sono infilata in questo appartamento? Ecco, adesso ho capito perché io e te non ci siamo mai frequentate. Perché tu sei una pugnaccia, sei una veramente sbirgata. Lasciami in pace, esci da casa mia! Scusa, non volevo. Scusa. Vattene. Posso restare se faccio silenzio? Prometto che non apro più bocca. Giuro. Posso tenerti la mano. In silenzio. Solo per un attimo. Va bene. È fredda. È la circolazione. Posso toccarti la faccia? La faccia? Perché? Voglio sentire come sei fatta. Va bene, se ti fa piacere. Fronte larga. Sopracciglia folte. Naso importante. Anche tu hai un naso importante. Importante. In confronto al tuo mi sembra insignificante. Ma non mi pare proprio. Zigomi alti. E questa che cos'è? Una cicatrice? E che so, Frankenstein. Guarda che sono una bella topa, sai. E io no? Sì, sì, certo, certo. Oh, senti di un po'. Non sarei mica per caso anche lesbica, vero? Shhh, io niente contro le gay, trans. No, no, niente, niente. Io però sono etero, veramente. Cioè. Beh? Hai capito? Ti sei divertita? Di che colore hai gli occhi? Verdi. Marroni. Certo, stavo pensando che con questo fatto che sei cieca, chissà come fai sesso bene. Dovrai avere tutti i sensi amplificati, no? Ti divertirei tantissimo. Adesso facciamo silenzio. Ma tu sei toscana, vero? Mm-mm. Firenze. Anche io ho la mamma toscana. Mio padre invece è di Venezia, ma la mamma è di Pontassieve, presente? Ma quanto parli, eh? Non avevi detto che stavi in silenzio? Io stavo in silenzio. Sei tu che ti sei messa a parlare. Ci trovi di tanto interessante nel silenzio. Con questo buio, poi posso accendere un'altra candela? No, anzi, spegni anche quella accesa. Non se ne parla. Spegnila! Ti insegno a parlare in silenzio. L'hai spenta? Sì. Dammi la mano. Adesso chiudi gli occhi e pensa a qualcosa di importante, qualcosa di antico. Pensa al tuo primo ricordo. Vedrai che i tuoi pensieri passeranno dalla mano senza le parole. Va bene se nel frattempo visualizzo anche che ne so qualcosa tipo di interessante. Ho pensato. Ho visto. Cosa hai visto? Ho visto come una macchia bianca. Sì, il maglione. Poi? Un signore. Mio padre. Ai baffi. Sì, a lui. Incredibile. Questa veramente la devo raccontare a mio maestro di yoga, Carlo. Ma come hai fatto? Non ho fatto niente, ho ascoltato. E posso farlo anch'io? Certo. Rilassati. Stringi la mano. Sono in un paese di montagna. È il paese della mia nonna. Accanto alla nostra casa c'è un'altra casa di una signora molto anziana che si chiama Emilia e ha una gatta bianca e nera. Io sono lì. E l'Emilia mi chiama e mi dice che la sua gatta è magica. Se le do una carezza e esprimo un desiderio, questo desiderio si avvera. Hai visto qualcosa? Sì, ho visto come una nuvola nera. Sì. Può darsi, forse era un giorno di pioggia. E poi ho visto una barca e una canna da pesca e un pesce che sbatte nel secchio. Certo, ero a pesca con mio padre. E c'era anche una donna. Mia madre. E il pesce sbatteva nel secchio. Proprio così, il pesce sbatteva nel secchio. Nella barca. Nella barca. Incredibile. Non so neanche io come ho fatto. È il silenzio. Sei mai stata nel deserto? No. Però me l'hanno raccontato. E allora non lo conosci il silenzio, per questo ti fa paura. Posso riaccendere la candela? No. Ascolta. Cos'è? Ascolta. E questa cos'era? Hai riacceso la candela? Sì. Ne hai altre? Sì, nel secondo cassetto, vicino ai fornelli. Ce ne sono 4, ma basteranno secondo te fino a domattina? Penso di sì. Ma se fossero di cera durerebbero di più, non mi sembra che siano di cera. Shhh, fa silenzio, fa silenzio. Secondo te che ore sono? Mezzanotte, l'una? Oh, no, non parlare. Ascolta il suono della fiamma. Il suono della fiamma? Oddio! L'hai vista? Cosa? La signora, nel buio. Bellissima, ma chi era? La Madonna. Fa silenzio, cerca di rilassarti. Sono qui, sono qui. Ascoltami. Sì. Mi dica. Benedetta. Ma io veramente mi chiamo Anna. Anna, tu sei la benedetta. Va bene, sono Benedetta. Anna, benedetta, devo dirti un segreto che trovai tenere per te in silenzio per 40 giorni. Oh! Inginocchiati, china il capo, pochi giorni rimangono all'uomo. Tu sai di chi è il regno dei cieli. Il regno dei cieli. Non è una domanda, Anna. Tu sai di chi è il regno dei cieli. Ok, lo so. Sì, lo so. Anna, tu sei la benedetta che dividerà i buoni dagli empi il giorno in cui il fuoco avvampirà nel cielo, gli angeli scenderanno sulla terra e squilleranno le trombe. Tu siederai alla destra del Padre e giudicherai gli uomini. La destra del Padre, gli angeli, le trombe. Tu vestirai un abito bianco. Bianco? Guardi, il bianco non mi sta proprio benissimo. Tu vestirai un abito bianco. Va bene. Scarpe? Anna, benedetta, tu attenderai 40 giorni, poi ti spoglierai. Devo spogliarmi? Nuda? Deporrai le tue vesti terrene, Anna, benedetta. Tu morirai. Morirò. Perché devo morire? Adesso prega. No, ma io non voglio morire. Signora? Signora? Dove va? Signora, ferma. Signora, io non voglio morire. No, io non posso morire. Signora? Signora, io non voglio morire, signora! Anna! Signora, no, io non posso Anna. Morire! Anna, sono io, Daphne! Anna! Ma l'hai sentita? Chi? La signora. Dice che mi devo spogliare, gli angeli, le trombe. Dice anche che devo morire. Ho sognato? Sì, hai sognato. Dice anche che rimangono pochi giorni. Ho delle gocce di là, se vuoi. Che gocce? Per rilassarti, ne hai bisogno, prendile. Droghe? Ne hai? No. Proprio niente? No. Non le voglio le gocce. Secondo te è la fine del mondo? Dimmi cosa pensi davvero. È la fine del mondo questa? No. Al massimo è la fine di questo mondo. Cioè? Per esempio, l'energia elettrica non è mica l'unica forma di energia che conosciamo, ce ne sono molte altre. Per esempio, scusa? La forza delle braccia, l'energia del pensiero. Sai quanti anni ha l'uomo di Cro-Magnon? No. Chi è? Lo scheletro umano più antico mai ritrovato. Ha 30.000 anni. E sai quanti anni ha invece l'energia elettrica? 150. È come se tu avessi vissuto tutta la vita senza cellulare. 2 mesi fa te ne avessero regalato uno e oggi l'avessi perso. Potresti tornare a vivere senza, no? No, guarda, io senza il cellulare impazzisco. Ma secondo te è così in tutto il mondo? Certo. E come lo fai a sapere? Se fosse soltanto a Milano o in Italia, a quest'ora sarebbero arrivati elicotteri da Londra, da qualche altra parte del mondo. E quanto durerà? Penso che durerà. Cioè? Per sempre? Sì, per sempre. Oh mio Dio, non ci voglio neanche pensare. E come facciamo, scusa? Come abbiamo sempre fatto. Scriveremo dei biglietti, delle lettere. Ci muoveremo in carrozza o forse coi treni a vapore. Niente più televisione, niente più lampadine, niente frigoriferi. E la musica? Forse i grammofoni, quelli a manovella. I CD? No, niente più CD. Se vorrai della musica dovrai trovare qualcuno che la suoni, come è sempre stato. Cioè, scusami, tu vuoi dire che da oggi in poi, in tutto il mondo, per sempre, nessuno potrà mai più ascoltare un pezzo dei Rolling Stones. E DVD, i CD, le foto nel computer, le ho perse tutte. Quelle che non hai stampato. Oh, no. Ce n'erano un paio bellissime. C'era quella con Ottavio in Ca' Foscari, nella laguna, con tutti i riflessi del tramonto. E poi c'era quella con Sibilla, in India, tutte vestite d'arancione. E poi c'era quel filmino fatto al Centre Pompidou, dove io scendevo dalla duna finta per il festival di danza. Persi. Tutti. L'avevo copiata anche sui DVD. Anche quelli. No. E poi che altro? Hai sentito l'acquario del rubinetto? Sì. Puzza. Sembra marrone. Sono i depuratori, saranno bloccati. Acqua in bottiglia ne hai? Sì. Quanta? Una cassa più 2 o 3 bottiglie. Io ho una cassa quasi intera. Ma perché è successo, tu lo sai? Ho sentito dire che sono stati gli alieni. L'ho sentito dire da una donna stamattina per strada. Non ho capito se stava scherzando o rideva. Rideva? Sì, rideva. Ma forse era ubriaca perché erano le 7 del mattino, avevo un abito da sera. Cos'altro hai sentito? Uno parlava del sole, tutti lo stavano a sentire. Era un signore alto, elegante, di una certa età. Parlava del sole e diceva che c'erano certe esplosioni. No, che il sole stava esplodendo. Non ricordo. O che il polo sud era andato al polo nord e viceversa. Ma anche i Maya c'entravano qualcosa. Non ho capito un granché. E un meteorite. No, no, aspetta, forse il meteorite era qualcun altro che ne parlava. Mi sembra passato un secolo. Ma che ore hai detto che sono? Non so, mezzanotte. Ah! cosa pensi? Ce l'hai un'idea? Sì. E qual è? Si è fermato l'universo. Ha smesso di crescere. Sai che l'universo si espande? Si espande? Diventa sempre più grande. Al principio era una cosa piccolissima, un puntino minuscolo. Poi è esploso e ha continuato a crescere fino all'infinito. Poi però a un certo punto si è fermato. Perché? Perché è così, non si sa perché, è una teoria scientifica. Ah. L'universo tutto a un tratto si ferma e poi comincia ad andare in senso inverso. Come i poli. Esatto. Comincia a restringersi e diventa sempre più piccolo. Solo che in questo modo cambiano le leggi del tempo e dello spazio. Il grande diventa piccolo e il prima diventa dopo. Il prima diventa dopo. Cioè, se faccio una cosa prima, in realtà la sto facendo dopo. Andiamo indietro nel tempo. Veramente? Certo. Quindi ringiovaniamo. Esatto. E poi continueremo a ringiovanire e moriremo di giovinezza. E anche le nostre madri, i nostri nonni, i nostri antenati torneranno giovani. E tutta la storia dell'uomo andrà a rovescio. E alla fine torneremo a fare il fuoco con le pietre. E poi? E poi torneremo scimmie. E non ci saranno più uomini né donne. Ci saranno soltanto bestie. Come facciamo quando è finita l'acqua? Male. E il cibo? No, l'acqua prima del cibo. Quest'acqua non si può più bere, è velenosa. Bisogna andarcene. Dove? Prima degli altri, prima che tutti si muovano, poi diventerà impossibile. Ma dove andiamo? In montagna. Montagna. Ho una casa in montagna, era di mia nonna. Lì c'è l'acqua buona. In qualche modo poi per il cibo ci arrangeremo, però bisogna partire subito. Ma quando? Il prima possibile, domattina. Ma come andiamo? A piedi. Se partiamo presto, per la sera siamo lì. Presto quanto? Te l'ho detto, il prima possibile. Cosa mi porto? In montagna. Sembra una follia. Tu che scarpe hai? Degli scarponcelli. Il cane non ce l'hai? No, non ce l'ho il cane. Ti sembra di aver visto in giro qualche cane? No, però hai le scarpe da montagna. Non sono scarpe da montagna. Sono scarpe normali, solo un po' più grandi, rinforzate. Sono importanti le scarpe per noi ciechi. Perché? Che scarpe portate voi ciechi? Essenzialmente delle scarpe che se uno pensa una merda non se ne accorge. È vero, sei una scarpina aperta, sei spacciato, sei uno scarponcello poco male. Piangi, piangi, va, che ti fa bene. Ho gente che si picchiava per strada. C'era un palazzo in fiamme. C'era un ragazzo che aveva salvato piano che non si muoveva e intorno a grida allo spari all'inferno. Io volevo solo tornare a casa. Lui stava lì immobile in mezzo al marciapiede, non mi lasciava passare. Qui sotto c'era una donna che piangeva. Sì, sì, l'ho sentita per tutto il giorno. Perché piangeva? Cazzo ne so io perché piangeva, eh? Ma che cazzo ne so! Cos'è? Ma che fai? Indovina cos'è? È più carino, sintomatico, mi starò bene, amoraglia mia, na na na na na na na na na na, tirate giù. Spento la bandiera bianca sul ponte, spento la bandiera bianca. Dai, fammene uno te. Nella nebbia tutta la rabbia ormai non ci vedevi più. E adesso che siamo tornati insieme, ti dico t'amo e tu non me lo dici mai. E adesso giura, adesso giura, adesso giura che non hai paura, che sei una fregatura, dirmi amore mio. T'appartengo, io ci tengo se prometto, poi mantengo, ma appartieni se ci tieni, tu prometti. Non la so. Ma è vera la storia dell'universo che si restringe? Dicevo per dire, cosa vuoi che ne sappia io? Non so niente. So solo che non funziona la luce, e il frigorifero, e i depuratori. E che prima ce ne andiamo meglio è. Quindi magari torna anche la luce? Magari sì, magari no. Giuro, guarda, se torna la luce cambio vita. Prima di tutto smetto di fumare. Poi lascio tutti gli amici e rimango da sola col fidanzato. Poi ti prometto che ti invito ogni volta che faccio un'altra festa. Grazie. No, guarda, ti racconto una cosa. Ascolta, ti racconto una cosa. Ti racconto di quando ero piccola, dai. Ascoltami. Guarda, ero piccola e di già non ci vedevo granché bene. Ma insomma, ci vedevo abbastanza. Insomma, quando andavo dalla mia nonna, c'era anche la mia bisnonna in casa. Devi immaginare una casa un po' grande, sai, con i corridoi, quei corridoi lunghi con tutti i pavimenti di graniglia, bellissimi. E c'era nella cucina anche un trogolo, un lavavo per i piatti che era fatto di pietra. Quella pietra che aveva un odore forte, di umido, di muschio. Io, insomma, da sotto il tavolo andavo e fregavo gli occhiali alla mia nonna. Anzi, alla mia bisnonna, erano gli occhiali bifocali, sai, una volta si usavano, avevano la mezzaluna dentro, che così potevi vedere sia da vicino che da lontano. Ecco, sì. Insomma, io li prendevo, me li mettevo e cominciavo a correre giù per il corridoio come una pazza. perché mi piaceva lo sballo, come un'allucinazione. Io non mi sono mai fatto un acido, ma credo proprio che sia così. E insomma, una volta ho sbattuto una boccata sulle scale e mi sono spaccato un labbro e mi sono riempita di sangue e il sangue è schizzato perfino sugli occhiali e ho cominciato a vedere tutto rosso, soltanto rosso, rosso, rosso, solo rosso. Oh merda. Meglio tutto nero o tutto rosso? Tutto rosso. Io adesso vedo tutto nero. Che sfiga che hai. Glaucoma si chiama. Oh! No, guarda, non è successo niente. Io penso, davvero che ci sia un problema sociale e anche politico in tutto questo. Oh no, sai? Ti prego, basta. No, io sono stata un sacco di tempo ipovedente. Vuol dire che uno non ci vede completamente. E ci sono vari tipi di ipovedenza. C'è chi vede con un campo visivo ristretto, come se avesse il paraocchi, oppure chi vede tutto annebbiato. Ecco, io vedevo tutto annebbiato. Però a un certo punto sono diventata cieca. E devo dire che preferisco non vedere un cazzo piuttosto che vedere annebbiato. Perché quando vedi annebbiato, sai che succede? Che le poche informazioni che ti dà la vista, tu pensi che siano la realtà, e non è vero. Cazzo. Il tuo residuo visivo, cioè quello che tu vedi, ti dà delle informazioni di un mondo che è una fantasia. Lo sapevi che di quello che tu vedi, tu che sei vedente, dico, solo il 30% è dato dagli stimoli che arrivano al tuo occhio. Il 70% è dato dalle elaborazioni della corteccia cerebrale. Perciò quello che vedi per il 70% è una fantasia. Secondo me anche il mondo è così. Siamo arrivati a un punto in cui tutto quello che viene visto è una finzione. È come se fossimo tutti ipovedenti. Si pensa che i segni della realtà siano la realtà, ma è una fantasia. La democrazia, il progresso, la scienza, è tutto finto. Ce lo raccontiamo. Non ho mica capito tanto bene il discorso che hai fatto. Mi sa che a te non te ne frega niente della politica. No, e mi stanno anche sul culo tutti questi discorsoni. Lo so, perché la gente non vuole pensare. Anna. Anna. Sì? Mi prometti una cosa? Sì, vai. Dimmi. Che non te ne vai. Che domattina partiamo insieme. Promettere. Promettere è una parola grossa. Come faccio a promettere? Sì. Prometto. Certo. Non sei molto convincente. E cosa facciamo in montagna, io e te, da sole? Io posso raccogliere delle erbe, l'orto lo posso fare e posso anche cucinare. E io? Tu potresti uccidere degli animali. Io non posso uccidere degli animali. Perché? Perché mi fa schifo. Senti, ma non dobbiamo mica stare in montagna per forza io e te tutto il tempo da sole, vero? Voglio dire, qualcuno in città sarà rimasto, no? Hai detto che i treni ancora funzionano. Andiamo a vendere dell'acqua. Oppure, non so, prendiamo una carrozza e... Possiamo tenere dei cavalli, c'è una stalla. Una stalla? Ho fatto una pubblicità una volta dove c'erano tutti questi vestiti dell'Ottocento dentro la stalla, con gli sbuffi, le trine. Me ne sono provato uno e mi stava anche una meraviglia. Ma tu lavori in pubblicità? Sì, in produzione. Tu lavori? Faccio la fotografa. La fotografa? Non ci credi? E come fai? Non so se risalendo in macchina, stava salutando la folla che dietro al palco dava insomma le sue testimonianze, eccetera. A un certo punto si è visto un oggetto, probabilmente di ferro, che lo ha colpito in pieno volto. Buonasera, buonanotte cari amici di Rai 1, Nancy Squitieri, violinista, mezzogiorno in famiglia su Rai 2 il sabato e la domenica, ospite questa notte a Nancy, è lei che possiede la musica o è la musica che la possiede?